24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 7 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 13 maggio. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Questa mattina il confronto non vorrei farlo tra la Francia e la Gran Bretagna, come di solito succede mettendo a confronto i titoli di prima pagina, ma con la Francia e un articolo in prima pagina del New York Times. Cominciamo dalla Francia, dove parallelamente a quello che sta succedendo in Italia, anche in Francia c'è un grande dibattito e qualcuno come Le Figaro si spinge a parlare appunto di qualcosa simile a una crisi tra due linee. Da un lato c'è la linea di chi dice sta cambiando tutto, dobbiamo dare soldi a pioggia, e dall'altra invece c'è la linea diciamo un po' più liberista. Pare che Macron, sulla base di un sondaggio che è stato fatto ai suoi elettori, in mezzo agli elettori della Repubblica en Marche, abbia capito che i francesi vogliono più un stato sociale, perché il 96% pensa che la mondializzazione si sia spinta troppo avanti e soprattutto sono convinti che bisogna essere molto più inflessibili contro gli evasori fiscali, insomma una redistribuzione della ricchezza è quanto chiedono gli elettori di En Marche. E allora il partito di Macron ha creato una specie di task force, anche loro con una dozzina di ministri, ottimo, sulla solidarietà sociale. E tutto questo fa storcere il naso a un quotidiano più conservatore come Le Figaro. Anche loro sono in mezzo al guado, perché come titola Le Figaro, la Francia è il paese più toccato dalla crisi economica post-Covid-19, mentre noi siamo convinti, e credo a ragione, che il paese più toccato sia l'Italia. Ma vorrei brevemente chiudere invece con l'articolo del New York Times in prima pagina, perché noi oggi, Simone, torneremo sul tema che ci sta molto a cuore, no? La scuola. Ebbene, il New York Times lo mette in prima pagina con un reportage da Neustrelitz in Germania. Sapete cosa fanno gli studenti di questa piccola cittadina del nord della Germania? Ebbene, fanno il test, cioè loro entrano a scuola e gli fanno il test per capire se sono positivi al Covid-19. Se sono positivi al Covid-19 devono starsene a casa per 2 settimane. Se non lo sono, invece, possono continuare a andare a scuola, perché gli studenti delle scuole superiori in Germania sono tornati a scuola perché è considerato vitale per questa fascia di studenti che siano a scuola. E come dice il preside di questa scuola del nord della Germania, le scuole sono la spina delle nostre società e della nostra economia. Senza scuole i genitori non possono lavorare. La spina dorsale, certo, la spina dorsale, certo. Basta, per carità. No, non nel senso che pungono, sono la spina dorsale. E la cosa più importante per la Germania, dice il preside, è che i ragazzi non sprechino questi mesi di prezioso apprendimento. Sì. Per questo le scuole superiori sono tornate ad aprire e il New York Times ha messo in prima pagina questo reportage. Questa storia. Allora, qua ovviamente ci scrivono, ci hanno già iniziato a scrivere gli ascoltatori, da chi ci dice: vedo le mie figlie di prima e terza media spegnersi ogni giorno un poco di più, senza scuola, senza sport. Chi come Mauro da Lugano dice: sono appena passato davanti ad una scuola qui in Svizzera, mascherine, disinfettante, steward, tutto tranquillo, perché lo ricordiamo, in alcuni cantoni, in gran parte dei cantoni, sono ripartiti lunedì scorso. Insomma, la chiusura è stata molto breve. Sempre 349-238-6666 per i vostri messaggi su WhatsApp e WhatsApp audio. Sempre l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta più avanti nel corso della trasmissione. Come vi dicevo, parleremo anche di ristoranti, di queste regole per la riapertura, ma partiamo esattamente dalla scuola, dalla riapertura in generale. ma anche dalla scuola, da questo buco formativo con il quale si troveranno i nostri studenti e con questo buco di accudimento, se così vogliamo chiamarlo, con il quale si trovano le famiglie che hanno bambini più piccoli, e con il buco di socialità e di diritti con il quale si trovano appunto proprio i bambini. Iniziamo con Guido Saracco, che è il rettore del Politecnico di Torino, coordina la task force di 80 esperti per la fase 2 della Regione Piemonte, quindi anche della fase 2 in generale parleremo, e aveva approntato, gli ascoltatori di 24 Mattino lo sanno perché alle 6.45 l'avevamo ospitato una mattina, aveva approntato un piano, questa task force, esattamente per la ripartenza delle scuole. Saracco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. E anche con noi Monica Guerra, che è docente di pedagogia generale e sociale all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno Guerra, benvenuta, eccoci. Buongiorno a tutti voi. Maria, prego. Partirei dal professor Saracco. Stavo citando prima l'articolo in prima pagina del New York Times e la testimonianza del preside di questa scuola superiore di un piccolo centro in Germania dove gli studenti sono tornati a studiare, il quale dice: le scuole sono la spina dorsale di un paese. Se i ragazzi non vanno a scuola, i genitori non possono tornare a lavorare e comunque si crea un gap nell'apprendimento. Cito a questo proposito il rapporto di Save the Children, che evidenzia come gli effetti della pandemia sulle istituzioni scolastiche abbiano messo a dura prova i ragazzi e soprattutto quelli che vivono in condizioni di difficoltà economica. Il rapporto di Save the Children parla di un bambino su 5 che non riesce a fare i compiti e uno su 10 che non segue le lezioni a distanza. Ma io vorrei chiedere la sua opinione non solo su questo dato, ma in generale sul fatto che la generazione tra i 13 e i 18 anni, che da 3 mesi non va a scuola di fatto e che continuerà a non andarci fino a settembre, avrà dei buchi, delle voragini nell'apprendimento, e come si può fare per farglieli recuperare? O è possibile recuperare? Sì, è complesso, anche perché il mondo di oggi sta cambiando radicalmente nel modo in cui si ricevono informazioni, quindi già eravamo sostanzialmente in ritardo con le modalità con cui insegnavamo nelle scuole superiori, ad esempio, per poi preparare i ragazzi a entrare in università. Siamo tutti, a ogni livello del percorso formativo, intenti a capire come riformare noi stessi per essere più efficaci in un mondo che è più interdisciplinare, cambia continuativamente, deve essere riprogettato in modo più sostenibile, e i ragazzi a volte riescono a ricevere più informazioni di quelle che magari gli può dare un docente, per cui è necessario curare più la canna da pesca che non il pesce, no? Cioè cercare di dare loro strumenti per apprendere in modo corretto e farsi sviluppare un senso critico per poi operare anche con responsabilità sociale. E questo ovviamente in questo momento in cui manca sostanzialmente la discussione, perché molto spesso al di là delle carenze della rete che impediscono ad alcuni di apprendere, o del fatto che fatalmente i genitori non sono dei pedagoghi eccellenti e quindi qualcuno ha proprio difficoltà ad apprendere, manca lo spazio di discussione che sta crescendo, discussione intendo con i docenti e anche tra studenti. Questa componente stava crescendo un po' a tutti i livelli della catena, e questa battuta d'arresto legata all'emergenza COVID. Ma secondo lei gli studenti e gli insegnanti si rendono conto del fatto che tenere lontani fisicamente dalla scuola, al di là delle nozioni che si possono apprendere online, crea un problema di conoscenza che questi ragazzi che fanno la terza media, il primo liceo, il secondo istituto tecnico, quello che è, probabilmente non recupereranno? Ecco, la domanda, mi scusi, aggiungo alla domanda di Maria Latella, insomma, le chiedo anche il punto di vista del rettore di una grande università italiana che tra 5 anni, tra 2 anni, 3 anni, si troverà queste persone nel suo ateneo. Assolutamente. Guardi, ce ne stiamo rendendo un po' conto tutti di questo, ma i primi sono le famiglie. In questo momento lei accennava la tela al fatto che una parte del problema sono proprio i genitori che non possono andare a lavorare, oppure i genitori che francamente spesso è la donna che rimane a casa per tutta una serie di motivi che non sto a elencare, e cominciano ad andare gli stessi genitori in crisi psicologica molto spesso. Per dire molto onestamente, è il caso anche della mia famiglia, io ho due bambini a casa e va bene che faccio il rettore, ho questo privilegio di poter andare sempre nella cabina di comando di una grande università, e questo mi dà un alibi, però la mia compagna che è a casa con loro e deve comunque lavorare è sottoposta a un grande stress, e di fatto un po' viene riflesso questo sui bambini, e questo è un qualcosa di cui ci stiamo rendendo conto, al di là di una iniziale euforia per il fatto che tutto sommato siamo riusciti in tanti tra scuole e università, ha fatto salti mortali, ha dato un grandissimo servizio, però assolutamente siamo veramente tutti carichi e stiamo dando il massimo per poter tornare in presenza almeno quota parte del tempo, poi le modalità nella scuola sono diverse, si può pensare a sezionare, turnare, e pur sempre con queste misure di contenimento del rischio di trasmissione del contagio. È tutto molto chiaro, e io penso che questo accelererà quel processo che le dicevo in partenza, già avevamo intrapreso, di portare le università a essere più luogo di discussione che non luogo di trasferimento di informazioni, luogo di maturazione di un senso critico, perché bisognerà recuperare tanto in questa direzione quei ragazzi che arriveranno. Monica Guerra, allora lei in queste settimane, lo fa da sempre, però insomma, in queste settimane in particolare ha lavorato anche su questi aspetti. Uno spunto le lancio, ed è come sono stati trattati i ragazzi e i bambini in questa crisi da Covid-19. Insomma, l'impressione è che siano stati la categoria più dimenticata, a prescindere dall'apertura o meno delle scuole, è proprio un ragionamento generale. Che sensazione, che idea si è fatta lei? Ma la sensazione che ho non è molto diversa purtroppo da quella che ho e abbiamo in molti altri momenti della storia del nostro paese, cioè l'educazione e i bambini e i ragazzi non sono esattamente una priorità, e quindi anche in questi tavoli e in queste settimane, in questi mesi, non sono stati il primo tema nell'ordine delle discussioni. Lo sono diventati nel corso delle settimane per via delle pressioni, direi, dei genitori innanzitutto, ma anche di molti bravi insegnanti e docenti, ma anche rettori, perché quello che ha appena detto il rettore è molto coerente rispetto a quello che serve a bambini e ragazzi, e quindi mi sembra che nelle ultime settimane, se non una priorità, perlomeno sono diventati un tema di discussione, anche per forza di cose, nel senso che è sotto gli occhi di tutti che la situazione che li riguarda è una situazione che non può protrarsi oltre, e non parlo necessariamente di un ritorno immediato a scuola, così come non può esserci un ritorno immediato negli atenei, ma certamente questo è il momento di incominciare a fare dei progetti pensando anche a loro. Quello che ha funzionato laddove educatori e insegnanti, ma anche docenti delle università, hanno messo a disposizione non soltanto occasioni per erogare contenuti e quindi appunto quelle informazioni a cui si faceva riferimento poco fa, ma anche e innanzitutto strumenti e, mi permetto di aggiungere, occasioni di relazione, perché anche in questo tempo, in questa forma, molti insegnanti hanno mostrato che era possibile mantenere aperte delle relazioni di apprendimento con i propri studenti, che fossero molto piccoli o che fossero più grandi. Forse un po' troppo a macchia di leopardo. Una pausa, vi aspettiamo all'800 24 00 24, ci ritroviamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Scanner e misure adottate dalle scuole cinesi per far entrare i bambini, ovvero con disinfezione abiti scarpe, lavaggio mani, disinfezione mani e scanner che misura la temperatura e le particelle di saliva. Quanto potranno mai costare allo Stato italiano affinché queste misure possano essere adottate anche dei nostri istituti scolastici? Perché poi qua ovviamente c'è anche il tema, cara Maria, di... Allora, posto che si ripartirà a settembre, su questo ci sono pochi dubbi, mi sembra, insomma, stiamo parlando di un problema che c'è, oggettivo, però mi sembra che sia difficile smuovere il governo da tutto questo. Poi bisognerà capire come si riparte a settembre, no? E sono anche i costi, perché noi... Tutte le mattine parliamo di quello che serve all'Italia e purtroppo dimentichiamo che non siamo nelle stesse condizioni in cui, per esempio, si trova evidentemente la Cina o la stessa Germania, con l'esempio che abbiamo fatto della piccola scuola del nord-est della Germania a Neusterlitz, dove i ragazzi fanno il test. E voi immaginate, anche lì è un esperimento, non è che in tutte le scuole della Germania hanno i soldi per fare il test, però cominciano a farlo. Si inizia a sperimentare. Ed è una questione di costi, come giustamente diceva la nostra ascoltatrice. E le condizioni economiche del nostro paese, che sono, come dire, stanno venendo al pettine negli ultimi 30 anni, sì. Non abbiamo fatto le cose che dovevamo fare e ora dalla burocrazia incapace di spendere i fondi per le scuole, 800 milioni per i fondi per l'edilizia scolastica non sono stati spesi negli ultimi anni, al fatto che non ci sono i soldi appunto per fare le cose che chiedeva l'ascoltatrice, tutto questo sono sì. Nodi che vengono al pettine. Ma se c'è ancora il professor Saracco... No, ma certo, ce l'abbiamo il professor Saracco, tra l'altro... Volevo chiedergli una cosa a proposito di quello che sta avvenendo appunto in Europa e di quello che avverrà all'esame di maturità, perché appunto cito soltanto due paesi: la Danimarca, che ha fatto partire le scuole materne già 3 settimane fa, e la Germania, che ha privilegiato invece gli studenti delle scuole superiori, proprio perché sono quelli che poi devono entrare nel mercato del lavoro oppure all'università, e che torneranno, nonostante ci sia stato un rialzo dell'infezione, torneranno gradualmente, ma torneranno tutti. Da noi, agli esami di maturità, invece, la notizia ce la dà il Messaggero questa mattina, c'è il problema che non si trovano presidenti di commissione disponibili a svolgere il loro ruolo. Mancano anche in Piemonte, nel Lazio, nel Veneto. Ma allora non sarà, scusi professore, che il vero ostacolo al ritorno a scuola non è tanto solo la salute degli studenti, ma le preoccupazioni degli insegnanti, che temono di essere contagiati? In Germania tutti hanno la mascherina, studenti e docenti. Non si poteva prevedere anche questo in Italia e far tornare i nostri studenti almeno a giugno, visto che le scuole tutto sommato potevano essere prolungate di qualche settimana e finire a fine giugno invece che ai primi di giugno? Guardi, le posso dire che è tutta una società che deve ripartire complessivamente. I problemi da superare, le ansie, le preoccupazioni si hanno ovunque. Le faccio un esempio: io ho riaperto alcuni laboratori di ricerca. Noi abbiamo 3.000 diciamo, addetti alla ricerca, tra docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti. Più di 3.000, solo 300 sono quelli che ammetto, perché oggettivamente, per avere un buon controllo del rischio di trasmissione del contagio, devo dargli tutte le dotazioni, devo sanificare tutti i luoghi che giornalmente frequentano, sono costi ma anche disponibilità di manodopera aggiuntiva delle imprese che ci danno questi servizi. Bene, rispetto a 300 che avevo posto come limite, siamo intorno ai 200 di persone che effettivamente vogliono avviare questo, che non è male, perché consente di avviare la macchina un pochettino più con calma, ma questo le dà anche un po' il polso di quanto, pur volendo tornare, ci sia ancora un po' di freno psicologico nel farlo. In generale le scuole superiori hanno degli studenti che sono più consapevoli, quindi sanno come comportarsi. L'ottica della Germania è comprensibile, ma guardi che i danni da un punto di vista del percorso formativo credo che siano superiori nelle scuole elementari o nelle scuole dell'infanzia, perché è lì che i ragazzi i bimbi, meglio, maturano quel senso della socialità e del rapportarsi con gli altri, anzi bisogna anche fare attenzione quando si rientra in aula in quelle scuole, e io penso che sia mandatorio cercare di farlo in presenza per tutti in questo caso, non avere questa segmentazione metà a casa che turna con metà in presenza, ma si deve cercare di entrare, bisogna fare in modo che quelle precauzioni di distanziamento non intacchino questo senso di socialità, non sedimentino nei bimbi un senso di diffidenza rispetto al compagno di classe da cui tenersi lontani. È una complicazione estrema, sì. Ma ne va della salute psicofisica, dell'apprendimento e di quello che sarà il futuro ragazzo, il futuro uomo, la futura donna. Da quel bambino è veramente delicato. Grande tema, professor Saracco. Questo è un grande tema che girerei alla professoressa Guerra, perché insomma poi è un po' il suo, per poi sentire qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice. Guerra, prego. Ma rispetto a bambini, ai bambini sono assolutamente d'accordo, anche ai giovani ragazzi, questo buco, quella che avete chiamato una voragine prima, e non è soltanto una voragine di apprendimento, ma è proprio una voragine anche di socialità. In queste settimane, come università, ci siamo impegnati facendo dei dialoghi con la cittadinanza e in particolare rivolgendoci ad educatori ed insegnanti. In moltissimi di loro questa è una percezione forte, che si è venuto a mancare un momento fondamentale nella formazione di questi bambini e di questi ragazzi. È per queste ragioni che, pensando all'intervento, alla domanda che è arrivata prima, credo che sì, è vero, sia un costo enorme quello a cui ci dovremmo apprestare, ma mi chiedo quanto sia in alternativa enorme il danno che si potrà subire se non investiremo per fare in modo che possa accadere. Sul tavolo ci sono paure di tutti quanti, ci sono le paure dei genitori che sono divisi tra il decidere se riportare i propri figli a scuola nel caso diventasse un'opzione, come per esempio è stato qualche settimana fa, almeno nelle intenzioni per la Francia, oppure se tenerli a casa e trovare delle alternative. Anche in queste prossime settimane in cui si ipotizza di sperimentare, sono molto spaventati gli educatori e gli insegnanti, ma perché legittimamente non hanno un immaginario di che tipo di scuola si possa realizzare pensando a questo distanziamento fisico che è necessario. Certamente però bambini e ragazzi in questo momento ne hanno bisogno, e l'impegno di noi adulti è di veramente buttare anche la creatività, io dico la creatività pedagogica e didattica, oltre quello che abbiamo immaginato fino adesso, per riuscire a pensare a una scuola e dei servizi educativi che magari saranno molto diversi da come li abbiamo conosciuti fino ad oggi, ma questa differenza può anche essere che diventi un'opportunità per rimettere mano a questioni della nostra scuola. Sospese da molto tempo ne hanno bisogno. Sospese ma da tempo immemorabile. Professoressa Guerra, solo un'osservazione rapidissima. Dal 18 si potranno vedere gli amici. Quindi i nostri ragazzi, diciamo dai 13 anni in poi, quelli che escono da soli, gli amici li vedranno. Ora, se possono vedere gli amici, ma non potevano tornare a scuola? Allora, rispetto alla scuola, credo che effettivamente, come diceva il rettore poco fa, è una bella provocazione. Io la riesco anche a comprendere e vorrei tantissimo dirle che la mia risposta è certo si poteva. In realtà davvero ci sono troppe questioni in campo, cioè le scuole, abbiamo bisogno di pensare le scuole diversamente da come le abbiamo pensate fino adesso. Se le pensiamo in quel modo lì, continueremo ad avere paura di riaprirle, perché un conto è vedere gli amici in un numero ristretto e queste saranno le indicazioni. Un conto è generare gruppi di bambini, penso soprattutto ai più piccoli in questo caso, perché poi è vero che dalla scuola secondaria, penso anche già di primo grado, le cose cambiano, no? Da quelle che chiamiamo medie le cose cambiano, con i più piccoli la questione è più complicata ed è anche una questione di responsabilità, perché noi scegliamo di vedere i nostri amici, ma nel momento in cui c'è un'indicazione a riaprire le scuole e quindi è lo Stato che ci sta suggerendo di farlo, ci sono anche delle responsabilità diverse in campo. Questo sì. Non toglie che si debba fare, che si debba fare, però probabilmente abbiamo bisogno di tempo, non è un caso che in questo momento anche quello che si inizia a sentire sui giornali di quello che stanno immaginando, sta immaginando il comitato dei 18 esperti, vada nella direzione di pensare in altri modi quello che fino adesso abbiamo chiamato scuola, senza perdere le cose importanti che abbiamo fatto della scuola stessa. Giovanna da Bergamo, buongiorno, rapida. Sì, rapidissima, buongiorno, sono la mamma di un maturando e non faccio nient'altro che confermare le difficoltà di questo periodo, ma aggiungo qualcosa. Ho scritto 3 volte alla ministra, ma non ho ricevuto neanche un va bene, sì. Le faremo sapere. Ma più che altro per dire, ascoltate i ragazzi, perché leggo tante cose, si farà così, però forse ascoltare anche i ragazzi qualche idea in più. Sono d'accordo con l'intervento che mi ha appena preceduto, dobbiamo immaginare una scuola totalmente diversa da adesso, altrimenti la scuola di adesso non riesce a incastrarsi con le nuove emergenze. Tutto qua. Grazie Giovanna. A chiudere col professor Saracco, molto brevemente, professor Saracco, il piano di riapertura della fase 2 piemontese, come procede, come partirete? Guardi, in questo momento noi abbiamo redatto un rapporto che oggi stesso, se non domani mattina, ripubblicheremo in una seconda versione ampliata, ed è partita una fase che noi chiamiamo di beta test, ossia per quanto di propria competenza il Comune, la città metropolitana che si occupano di nidi e di scuole dell'infanzia e l'ufficio scolastico regionale che si occupa della scuola dell'obbligo, diciamo, hanno individuato 6 strutture di diversa forma e contenuto che vengono a ospitarci con un gruppo di esperti per provare a progettare in silico, cioè virtualmente, una ripartenza e da questo avere ulteriori sensazioni tecniche, economiche su quello che sarà da fare. Queste saranno poi pubblicate a beneficio di tutte le scuole in modo tale da fare un altro passo verso la riapertura. Vedremo come andrà. Grazie Guido Saracco, grazie. Rettore del Politecnico di Torino, e Monica Guerra, docente di pedagogia all'Università di Milano Bicocca. Grazie a entrambi e buona grazie giornata. Grazie a entrambi. Gennaro Esposito è chef 2 stelle Michelin, il suo ristorante Torre del Saracino a Vico Equense, fa parte tra l'altro del gruppo di lavoro della fase 2 della Campania, ha ristoranti anche a Milano, Ibiza, Londra. Buongiorno Esposito. Buongiorno, buongiorno a tutti. 4 metri quadri a cliente, ma come si fa? Effettivamente questa è una notizia che ci ha proprio messe un pochino in difficoltà. Il distanziamento di 2 metri era qualcosa che ci aspettavamo, perché comunque era già nelle norme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 4 metri quadrati, che poi in fondo è il famoso 2x2, sono impattanti, soprattutto nei piccoli locali. L'Italia è un insieme di piccoli ristoranti, non abbiamo grandi saloni a parte per quelli per le cerimonie, insomma, per gli eventi. Però non bisogna aver paura di questa situazione qui, bisogna trovare le soluzioni in questo momento. Noi siamo un paese di creativi e dobbiamo superare questa fase, dobbiamo pensare ad aprire, ad accendere le luci dei nostri ristoranti, a ritrovare le nostre brigate, a fare questo sacrificio tutti insieme, che è anche economico, ma è anche un modo per riappropriarci del lavoro fatto in tutti questi anni, che sono cose che immateriali, non hanno un valore che va oltre, perché riprendere i tavoli di lavoro, di studio, delle ricette, di abbracciare i nostri collaboratori, ovviamente idealmente, sarebbe per me la cosa da fare in questo momento. Poi le aree esterne, i separé, i pannelli con materiali che sono anche delle tende veramente poco ingombranti e possono far recuperare i centimetri. Ovviamente nessuno vuole delle cose che ti cadono in testa in maniera ignorante, ma dire, dei pannelli, dei separé fatti bene, studiati bene, disegnati bene, possono aiutare in questo momento a guadagnare qualche tavolo. E poi ci sono le deroghe dei tavoli di famiglia, voglio dire, la coppia, il marito e moglie, la famiglia intera, che quindi hanno bisogno invece di una distanza che è un po' quella di 3 mesi fa, insomma, quindi un tavolo che si normale, può normale, normale, esatto, per diciamo proprio normale. Maria, la parola normale è proprio quella che io in questo momento. Lei ha ragione, Gennaro Esposito, quando dice: a questo punto bisogna attingere alla nostra creatività, farsi venire delle idee e mettersi al lavoro, perché tanto comunque i ristoratori hanno ragione a protestare. 4 metri sono francamente impossibili in qualsiasi locale che non sia appunto un grande albergo, ma il punto è che anche i clienti non sarebbero contenti di continuare a sedersi a tavoli in cui sono tutti appiccicati accanto a gente che non li conosce. Quindi anche occhio, il ristoratore... scusate, giusto per precisazione, visto che qualche ascoltatore ce lo dice, sono 4 metri quadri, questo vuol dire 2 metri, 2 metri, 2 metri, cioè nel senso sono 4 metri quadri, non sono 4 metri tra cliente e cliente. Prego Maria. No, 4 metri. Però lei aveva proposto... Lei aveva proposto 2 metri, che era una dimensione forse accettata. No, c'è un gigantesco equivoco. Le spiego, infatti sono molto contento di rappresentare le mie ragioni anche qua, perché noi abbiamo ripreso nella parte introduttiva il nostro, come posso dire, la nostra proposta di protocollo di legge sulla ristorazione, abbiamo proposto esattamente quello che era le norme dell'OMS. Se lei ci fa caso, la Slovenia, la Svizzera che hanno aperto e altre nazioni che hanno aperto, parlando dell'interno, ragionano i 2 metri per cliente di distanza. Quindi alla fine quella è la norma, non è che ce la siamo inventata noi. Noi abbiamo deciso di non discutere quella norma perché ci sembrava un esercizio inutile e soprattutto il legislatore avrebbe preso il protocollo e l'avrebbe cestinato, perché non è discussione questa norma qui. Cioè, l'OMS dice che il cliente deve rispettare una distanza di 2 metri tavolo. Adesso i 4 metri sono impattanti perché parliamo che intorno al cliente bisogna che ci siano 2 metri da ogni lato. Io penso che questa è una norma molto pesante, molto difficile da gestire, però è anche vero che più si abbasseranno i contagi e più si avvicineranno i tavoli, perché non possiamo neanche pensare di aprire senza garantire la massima sicurezza. Noi apriamo con una pandemia in atto, quindi non è che è finita, non è finita. Sì. Certo, non è che un cliente favorito, è contento di mangiare, assolutamente, però è una situazione questa molto complicata. Però io le voglio dire anche un'altra cosa che è molto importante. Il nostro lavoro, quello fatto con Brother in Food, è stato un lavoro chirurgico sulla vita del ristorante di tutti i giorni in tutti i suoi aspetti, che è stato un lavoro incredibile, meraviglioso, che permetteva al ristorante di aprire il giorno dopo. Cioè, noi abbiamo portato un protocollo preciso in ogni aspetto, dall'accoglienza del cliente a quando va via, in tutto quello che fa, quando si va in bagno, se si alza, la gestione del tavolo dal punto di vista sempre della sicurezza, dello sbarazzo, dell'apparecchiatura, cioè rappresentando tutti gli obiettivi che oggi noi dobbiamo garantire al legislatore, ma anche al cliente. Esposito, mi scusi, qua c'è una questione che qualche ascoltatore ha sollevato. Abbiamo ospitato un suo eccellente collega, e tra l'altro no, che fa una trasmissione da noi, che è Davide Oldani, e gli ascoltatori contestavano questo. Dice: sì, va bene, parlate bene voi che avete una stella, 2 stelle Michelin, che avete questi ristoranti nei quali potete permettervi, per così dire, di far pagare, no? Un po' di più, di tenere i tavoli più distanziati, ma noi che facciamo la ristorazione normale, che insomma un po' più facciamo pagare di meno, abbiamo bisogno di fare più pasti, e in questo modo non reggiamo. Cioè qua le imprese falliscono per quanta creatività uno ci metta, Esposito. No, però le voglio dire una cosa. Questo è un virus molto democratico. Va Sicuramente lo possiamo prendere dalla trattoria, dalla pizzeria, in osteria o nel ristorante stellato. Cioè non baderà certamente alle stelle o altri coefficienti. Sì, però voi economicamente potete permettervi magari di distanziare di più i tavoli, no? Io devo dire la verità, il lavoro fatto per quanto mi riguarda non ha tenuto presente di questo. Noi abbiamo garantito la sicurezza, oggi bisogna garantire la sostenibilità. E abbiamo anche noi gli stessi problemi, perché guardi, 4 metri quadrati sono tanti. Cioè, noi abbiamo la situazione anche con, io per esempio ho più di 23-24 persone assunte, io non posso, cioè adesso mi viene, la dico subito, io metterò 4-5 tavoli, ma io 25 tavoli in questo momento non penso proprio di reggere il passo, però voglio aprire per cominciare, non ho idee di far soldi questa volta bisogna riuscire a pagare le spese e stare in piedi. Io sono anche pronto a rimettere, ma ripeto, quest'anno è così, è inutile che ci siamo intorno, ma confido anche che fra un Esposito, mese fare turni, fare un turno alle 7:30 che si mangia anche bene alle 7:30 e poi fare un altro alle 20:30. Ripeto, cioè, le dico la verità, questo è molto facilmente applicabile in categorie di ristoranti un pochino più tra virgolette normali, cioè la pizzeria addirittura può fare anche 3 turni senza nessun problema. Il nostro lavoro è un lavoro dove non possiamo avere un atteggiamento burocratico rispetto al nostro cliente del turno, dobbiamo garantire un comfort che va oltre, quindi è complicato in un'esperienza che promettiamo gastronomica ragionare di turni. All'estero lo fanno molto più facilmente perché la gente è abituata. Certamente se qualche cliente si siede alle 7 possiamo sperare di vendere il tavolo alle 10, d'estate si può fare, non c'è problema. Però ripeto, guardiamo bene anche altre soluzioni, perché le altre soluzioni, a parte i deors esterni, sì, a parte poter prendere degli spazi nelle città che possono essere carini e fare anche delle formule diverse. Cioè io stesso oggi guardo in maniera trasversale, io voglio aprire il ristorante, ma magari posso cercare altro tipo di attività da fare anche insieme a altri imprenditori che fanno cose diverse dalle mie. Insomma, oggi siamo in guerra e bisogna veramente combattere, dice Esposito. Allora la dobbiamo ringraziare, siamo veramente in chiusura. Grazie Gennaro Esposito, chef, per essere stato con noi. Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. Buon programma. Ci risentiamo domani alle 8:20 con tutti gli altri alle 6:30. Ciao.